siamo, canale 10, ci siamo, sono qua. Ci siamo, canale 10, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Puoi ripetere? Daniele da questa parte, chi è? Ciao Daniele, Carlo da Sassari, via Prunizzetta. Ciao Carlo, ben sentito, Daniele Radio Spillo da questa parte, in movimento. E dove sei Daniele? Buonasera. Guarda, io sono qua, via Milano, altezza Guardia di Finanza. 9 più 20 più 30, un po' oscillante perché sei in movimento, segnalone forte Radio Super 5, e che avevo il volume bassino, capito, per quello ti ho detto di ripetere, però ti sento bene. Va bene, va bene, io ti posso avere un riscontro di segnale, sto guidando, ho il male adesso, guardate. Non è un problema, non preoccuparti Daniele, pensa a guidare, tranquillo, tranquillo, già stai arrivando bene qua. Già va bene, già va bene, qua sono con i fatti della radio io, dai, tutto liscio come l'olio. Sì, sì, sì, buona radio, segnale buono, sei in zona alta, quindi non sei troppo distante qua in linea d'aria, capito, quindi mi arrivi molto bene. E sul canale io acceso da poco, non credo ci sia ancora nessuno perché entrano un po' più tardi, tra un'oretta, capito, e quindi anche gli altri avrebbero potuto darti un altro riscontro migliore, magari chi è più lontano. Va bene, va bene, però anche tu sei arrivato forte, dai, ti sento un taglio, sei arrivato bene, io sono qua al testa dell'incontro, ma adesso in direzione Ghiattango, in palese attesa. Ehi, va bene, quindi sei di rientro a Itiri, Daniele. Cappa, se non sbaglio siamo pure sentiti dal QTH di Ghiattango, no? Sì, l'altra mattina che eravamo con Claudio, ti ricordi? Ci siamo sentiti due giorni fa, mi sa, di mattina, intorno a mezzogiorno. È vero, che sono entrato e sono uscito subito, perfetto, sì, è vero. Sì, sì, sì, già ci sentiremo così di tanto in tanto. Io diciamo che attualmente non ho l'antenna sul tetto perché mi sono trasferito da poco qua. Aspetterò la primavera per vedere se riesco a salire su e metterla. Quindi attualmente ho un'antenna sul balcone che diciamo va benino, dai, per adesso ho una postazione d'emergenza, però mi sto difendendo bene. Ah, già va bene, già va bene, meglio così, dai. Usando un Assirio Boomerang, quella grande, la SD27A è la più grande ed è buona anche per la ricezione, riesco a sentire un sacco di cose e cosettine. La conosco, ce l'ho avuta io la Boomerang originale all'epoca, non so chi la faceva, se non ricordo, forse l'ha avuta anche quella, la mia prima antenna è stata. KK, sì, diciamo, io non l'avevo mai usata e che me l'hanno consigliata, prima ne avevo un'altra ma non avevo una buona resa, non riuscivo a togliere le stazionarie nemmeno, era impossibile, e quindi l'ho levata, mi sono comprato questa, una cinquantina di euro, diciamo che ce l'ho da un mesetto e sta andando molto molto bene, dai, almeno per la città e qualche paese vicino alla città va più che bene. E si conferma, poi lì Prunizzetta è zona alta già, è un buon punto anche. Sì, sono riuscito anche ad arrivare ad Alghero, ho capito, quindi mi hanno sentito anche ad Alghero, per cui vuol dire che verso quella zona lì sono abbastanza aperto e quindi va bene. Invece sono più chiuso verso la zona di Sorso. Un po' come sono io, li sento Sorso. Dicendo, però arrivano tutti i passi e se non si mette qualche aiutino, almeno per aumentare un po' la radio, è un macello. E Esatto, sì, ma io ho già la possibilità di avere un aiutino, dai, già ce l'ho, e quindi non vado tantissimo, forse, però a una settantina, un'ottantina già ci arrivo. Perfetto, perfetto, sì, quelli fatti che fanno per la rifare, almeno fanno per me, se usi 50 di fatto, 50 di fatto, ai ci arrivi tranquillamente. Capito, arrivi con segnaloni fortissimi, però già va bene, almeno sentire la radio, dai, non posso segnare. Daniele, sì, vabbè, un po' ti devi aiutare, se no non vai troppo lontano, capito? Ho provato anche a fare qualche DX da qua, ho parlato con le Canarie, con l'Inghilterra e pure la Scozia con questo antennino, quindi diciamo che sono abbastanza soddisfatto. Certo, quando riuscirò a mettere un'antenna come si deve sul tetto sarà un'altra cosa. Ho una bella antenna, una J-Fold della Smartech, una 7 ottavi, è alta più di 7 metri, se riesco a mettere quella faccio bingo. Se c'è posto per metterle, sì. Io sto usando la Mantova, giù a Italy, e qua c'ho la PLC-1000, cioè, vecchia del 1800, ma funziona, va bene, e 5-6 watt in radio, cioè, boh. Capa, sì, le Mantova, ne stavo parlando l'altro giorno, sono delle ottime antenne, se uno, diciamo, se l'ha preservata e gli fa un po' di manutenzione, sono anche, si prestano anche alle riparazioni, quindi ottime antenne che danno una buona resa sia in ricezione che in trasmissione. Purtroppo non la fanno più la Mantova, quella che ci assomiglia più di tutti alla Mantova è la Sirio, adesso non mi ricordo, c'è una Sirio molto simile, capito? Ma la Mantova era inimitabile. Guarda, quella che ci assomiglia più di tutti è la Grazioli, che non mi ricordo il nome, ma la Grazioli adesso. E anche la Grazioli, sì, chi ce l'ha la Grazioli lo stesso, è soddisfatto, perché diciamo che va bene anche quella, capito? E, diciamo, antenne già se ne trovano, dai, importante è riuscire a metterle al posto giusto sul tetto. Si conferma, no, io con la mia non mi posso lamentare, la metà si ricca, l'ho presa usata, dove sei arrivato adesso? Sulla 131, sì. Scorrimento veloce per Itti. Ebbene, sempre segnale buono, 9.20 sempre qua, Radio 5. Caraba, bene meta. Vediamo, sì, dove arriviamo. C'hai un leggero eco, però va benissimo, capito? No, non disturba niente, anzi ti fa sentire meglio un pochettino, però già va bene, Daniele. Questo è da battaglia per l'estate, quando si va sul 45 a fare battaglia. Ho capito. Sì, quello è il canale di battaglia, lo so. Qualche volta mi è capitato di andarci, ma ti giuro che a volte è un manicomio quel canale. Io a 25 all'estate mi trovi solo al 45. Vado lì e inizio a bombardare. Ok. Per l'estate, quando si apre la propagazione, allora bisogna conservare le forze. Scusa Daniele, che mi è arrivata una chiamata e quindi devo fare un attimo di bianco, dai, ti pesco tra 2 minuti se ci sei ancora. Va bene, dai, ci ascoltiamo poi se coincide. Cappa, dai, ci sentiamo tra un attimo, prova a richiamarti se mi senti più in là. Daniele, ci sei ancora? Dove sei arrivato? Sì, ho superato Usi in questo momento. Segnale 9, 9, auspici positivi, la radio è sempre buona. Va bene, anche tu sempre perfetto qua, niente da dire, va benissimo. Va benissimo. È meglio, dai, perché così anche io c'ho un riscontro. Pensavo di averla sistemata male, l'antenna, invece già esce fuori dal poggiolo. Ho messo un palo di 2 metri attaccato alla ringhiera con i cavallotti e poi l'antenna l'ho messa sopra, capito? Con un braccio esce di 40 centimetri, 50 centimetri, una cosa del genere. E quindi, diciamo, già sono anche abbastanza in una zona alta qua. Dovrei arrivare bene sino a quelle distanze almeno. Va bene, quella che fa Gianluca era quella da 40 centimetri, che si attacca l'altro palo poi. Esatto, dai, poi quando inizia la buona stagione provo a fare un sovralluogo sopra sul tetto, perché mi sono trasferito da poco qua, quindi devo chiedere il permesso per accedere, perché non c'è un passaggio e quindi devo passare dall'appartamento di un privato, capito? E questo passaggio ti ho sentito, magari sei in zona d'ombra e non sei arrivato bene, ho sentito il dip finale, Daniele. Intanto quasi perdo. Vabbè, sono già quasi a Uri, sicuramente sono la zona negativa. Adesso di nuovo fortissimo, sempre segnale 9 con picchi positivi e la radio buona di nuovo. Guarda, sono proprio invece il distributore dello zicolo per Uri adesso. Bene, ti sento benissimo in questo momento. Forse eri più in basso prima e magari c'era qualche zona negativa. Come sei salito adesso lì? Ti sento perfettamente di nuovo. Se fosse rimasto a Fairo prima, dai. Perché lì sicuramente lì era zona negativa. Va bene, va bene. Dai, facciamo un riscontro più avanti, ti provo a richiamare tra 5 minuti, vediamo se mi senti ancora. Va bene, dai, sentiamo tra poco allora. Caffa Daniele. Daniele, mi occupi ancora? Attenzione Daniele, dove sei arrivato? Eia, dimmi Daniele, ti sento ancora. Daniele, mi senti? Attenzione Daniele, io ti ho sentito qualche istante fa, Carlo? Avanti Daniele, ci sei? Ci sei Daniele? Attenzione Daniele. Daniele, attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Daniele, ti sento bassissimo adesso Daniele, lo sento il beep finale in mezzo al QRM. Dove sei arrivato Daniele? K, adesso ti ho sentito. E anche se il segnale va e viene, se tu mi senti ancora, dai, ce la risentiamo eventualmente dal tuo QTH. Ciao Daniele, grazie per i controlli, ce la risentiamo. Cosa c'hai a voce? Ciao Claudio. Ciao, cosa c'hai a voce? Ero con Daniele, che stava rientrando a Istiri. Va bene, ci aggiorniamo dopo. Vabbè, che devo fare una cosa. Lei a cappa, no, è che stavamo facendo delle prove con Daniele, quindi lo stavo chiamando, ma evidentemente adesso lui è nella salettina, in qualche zona negativa, mi sentiva, ma io lo sentivo un po' bassino, ma l'ho sentito sino a Uri quasi, capito? E poi l'ho ripescato e niente, adesso ci sentiremo da suo QTH, dai, a dopo Claudio. Ehi, dai, ci aggiorniamo dopo che sto facendo una cosetta, poi ci sentiamo dopo, ok? Bene, ciao. Ciao. Recco? Chi è? Ciao Carlo, Luca, come sto uscendo che ho rimesso sull'antenna? Prova a fare un passaggio più lungo, Luca. 1, 2, 3, passaggio per controllo. Allora, qua 9 più 20 con scorreggeta iniziale. Come inizi, prima di iniziare la trasmissione, la tua voce c'è una pernacchietta. Forse perché l'accordatore automatico stava accordando. Dimmi se l'ha fatto di nuovo. Sì, l'ha fatto di nuovo, una pernacchietta. Non ho idea di cosa possa essere allora. Ora sono con l'Alan 48. Può essere il microfono, magari come schiacci il TTT, qualcosa che sprega e fa quel rumore lì. Prova. Sì, prima ha fatto 3 scorreggette, pa, e poi prova. Capito? Ero io che ho dato 3 colpi per vedere se non fosse mezzo difettoso il tasto. E vabbè, dai, meglio di niente. Ora mi sistemo e poi ci sentiamo. Qualcosa del genere. Ok, dai, ora mi sistemo e poi ci sentiamo. Già sono qua in ascolto, tanto. Breccasi. Avanti, sì. Buonasera, Massimiliano da questa. Ciao Massimiliano, Carlo da questa. Ciao Carlo, buonasera e ben ascoltato dopo un maremoto di tempo. Ciao Massimiliano, ben sentito anche a te. Dopo tanto io mi ero un po' dovuto assentare, ho cambiato casa e quindi adesso ho fatto una piccola stazione modesta, non ho ancora l'antenna sul tetto, però in città già riescono a sentirmi, dai, ce l'ho sul balcone. Ciao Carlo, va bene, dai, comunque anche in città se non ti ascolta, io ti ascolto, con un segnale di 9, una radio di 5, perfetta, ti ascolto bene, io sono fuori città. Bene, Massimiliano, anche io segnale qua, 9 con picchi positivi, ma sei in movimento? No, non è attivo, stazione fissa qua. Ah, ho capito, quindi sei fuori città. Yes, facciamo impresso. Bene meda. Prima ero con Daniele, che stava rientrando a Ittiri, l'ho sentito sino a Usini, poi lo sentivo a tratti, capito? Ah, positivo, dai. No, non sono in movimento, questa radio c'ha un po' di picchi di modulazione, quindi fa un po' di QSB forse. Sì, perché la lancetta quando parli si muove in avanti, a picchi positivi, e quindi pensavo che fosse in movimento, invece è così. Cava, no, sempre fermo sono, yeah. Bene, già è buona radio, radio Super 5, segnale 6 a 9, dai, 9 pieno, 9 anche più 10, già va bene, ti sento benissimo Massimiliano, ero là davvero, mi da più di un anno e mezzo che non ti sentivo. Guarda, io ho acceso ieri e ho acceso oggi, sì, ero almeno un anno e mezzo senza più modulare, là. Non stavo più accendendo, la verità. E a volte capita, per vari motivi uno prende, capito, e spegne tutto. Io lo stesso sono stato un po' costretto, adesso piano piano sto riprendendo. Di pomeriggio così 4 chiacchiere me le faccio volentieri in radio e non c'è problema, dai. Kappa, eia. E anche io, là, ieri ho sentito qualche amico, così l'ho salutato e... giusto a scambiare due chiacchiere, là. Va bene. Ho visto che... a volte accendevo così, ma non c'era mai nessuno, quindi alla fine ho preferito lasciare spento, là. Kappa, adesso approfitto che ti ho sentito. Poco tempo fa mi è giunta una notizia, non so se tu me la puoi confermare. Albino Baccano, che io ero stato da lui per far riparare una radio che mi aveva messo a posto, è vero che non c'è più oppure è diverso? In che senso non c'è più? Ma è deceduto, no? Io ho sentito così, ma ho i miei dubbi. No, negativo, lo sai perché? Perché circa un mese e mezzo fa, ho mandato un amico lì da lui, gli ha riparato qualcosina. Sono che hai deciso in questi giorni, ma non ho sentito niente. No, no, ma anche io ho pensato, infatti, molto probabilmente non è così, infatti ho detto, cavolo, era, se ti fidi, più giovane di me era, e mi sarebbe dispiaciuto tantissimo, infatti non ci volevo credere. Adesso che mi sei capitato tu, capito, ho chiesto conferma, mi sono permesso di chiedertelo anche qua in radio, capito? Meglio così, perché persona che ho conosciuto è ottima persona, capito? Gentilissimo, disponibile e soprattutto sa quello che fa. Sì, sì, positivo, caro. Ma ti ripeto, se non che sei tutto in questi giorni, perché... ti ripeto, un mesetto fa ho mandato una persona da lui, proprio nel suo paese, e quindi gli ha riparato qualcosina, ti dicevo, mi sembra un po' strana la cosa, comunque. No, no, no, e magari la persona magari si riferiva ad altro, non lo so, ci siamo capiti male, infatti a me sembrava strano, capito, mi sembrava molto molto strano, anche perché, cavolo, persona giovane, poi persona che si muove, va in campagna, vita salutare, quindi vabbè, meglio così, Massimiliano, non è un problema, si allunga la vita. Ma guarda, se sarebbe successo qualcosa l'avresti saputo subito. Infatti, esatto, esatto, dai, poco male, il detto popolare dice, quando uno dicono queste notizie gli si può allungare solo la vita in questo modo, capito? Ma infatti, gappa gappa. E quindi non c'è nessun altro in giro, no? No, prima ho sentito Claudio, è entrato un attimino, ma aveva delle cose da fare, mi ha solo salutato, più in là entrano, verso le, diciamo, intorno alle 18:30 c'è il solito traffico. Ah, positivo, dai, positivo. Va bene, dai Carlo, anche io mi allontano un attimino, scendo nel piano di giù. E vedo un po' se possiamo sgranocchiare qualcosina là, prima di cena. Poi magari se ne ho voglia rientro dopo, ok? Caffa Massimiliano, quando vuoi, ci fa sempre piacere sentirti. Va bene, ok, grazie. Ciao Carlo, ti auguro una buona continuazione di serata allora, dai. Saluto anche se c'è qualcuno in ascolto. Ciao Carlo, dopo. Ciao Massimiliano, ci sentiamo più tardi. Ciao ciao, buona serata anche a te. Un po' di meno, ma la fa sempre un po' la pernacchietta, Luca. Attenzione Carlo. Adesso a questo giro non l'ho sentita, prima sì. Carlo, ho cambiato radio. Com'è la modulazione da quest'altro Alan 78? Questa, la radio è Super 5, qua mi arrivi con la tua voce uguale uguale uguale. Bella, potente, 9,20 anche con picchi positivi, E allora mi sa che per ora tengo questa accesa. Ascolta Carlo, manda un messaggio a Claudio e autorizzalo a mandarmi il tuo numero, che così ti faccio uno squillo che ti racconto. Cappa, adesso mando un messaggio a Claudio allora. Claudio. Sono Carlo. Dimmi. Daniele sono. Daniele, sei a casa? Si conferma. Benissimo, ti sento bene. Aspetta, sì, adesso la comunicata vediamo la persona. Non è chiaro. Qua mi sta arrivando Santiago 7, capito? Radio 5, ti sento bene bene, Daniele. Il segnale è buono, già va bene. La distanza, diciamo, da Sassari-Itiri non ha troppi ostacoli, dai. Però io da questa antenna non posso pretendere di più. Sicuramente chi ce l'ha sul tetto da Itiri gli arrivi con 9 e passa. Va bene, tu sei... Ciao Daniele, ben sentito, Luca. Ciao Luca, ben sentito. Ciao per la mia di Carlo. Se sei di Carlo per Luca. Ehi AK, Luca, Daniele è arrivato al suo QTH Itiri. Capito? Prima ci siamo sentiti da quando era a Sassari, stava rientrando, l'ho sentito sino al distributore che c'è salendo a Uri, diciamo, lì quella salita, poi diciamo il segnale andava e tornava, adesso è arrivato al suo QTH e tu che sei in quella zona, Luca, dovresti sentirlo benissimo di segnale. La radio è bellissima, il segnale non ho fatto in tempo a guardarlo. Fai un passaggio, Daniele. Già fatto me, io so che si tende a te a mandare un numero, già ti ho mandato te lo Luca, che non ascolto. Daniele, cerca di chiamarmi per favore. E qua ti ho a... Cazzo, questa radio non si vede nulla. No, sono io vecchio che non ci vedo più nulla. Come dei ripicciti, Luca. Sì, comunque il segnale è 7, la radio è perfetta. Daniele, l'hai sentito Claudio? Gli ho mandato un messaggio di chiamarmi. Luca, gli ho già passato il tuo numero che ti ho sentito. Ho sentito Luca che voleva il numero tuo, me l'ho già mandato. No, io rimango un attimo all'ascolto perché sto facendo una cosa importantissima, se non mi dimentico. Vi sto ascoltando, ci sentiamo dopo. Va bene Claudio, grazie. Mi stavo andando a mandarti un messaggio, hai fatto prima tu, dai, vuol dire che hai sentito. Bene Mela. Io c'ho gli altoparlanti in tutte le stanze. Va bene, Daniele, riprendi tu, dai, per Luca, così ti dà il controllo, ma mi sa che gli arrivi 7. Sicuramente Daniele sta facendo una telefonata, Luca, riprendi. Guarda che Claudio ti ha mandato il mio numero, eh. Eia, mi faccio Bianco che ti chiamo. Ehi, AK, allora Bianco anche per me, se c'è qualcuno in ascolto, tra un attimo riprendiamo. Stavo uscendo con un watt, per quello ti arrivavo 7. famiglia va bene, in linea di massima va bene. E io già va bene, va bene. Però lo sta facendo ancora il fischio? No, adesso non lo sta facendo. Vedi. Prova a tenerlo lontano, il microfono, a vedere. Adesso è lontano, guarda. Non lo fa. E adesso è perfetto, adesso va bene. Sono sempre questi inghippi del team, anche a me lo faceva, te l'ho detto, come sono il filo di massa non me l'ha più fatto. E vabbè, già lo risolviamo. E infatti, non ci vuole nulla, un cavo di massa dal microfono all'entrata del microfono che ce l'apparato lì. E l'ho fatto così, andava bene. Ecco. Avanti, buonasera a casa. E allora Giannino, come va? Ma con chi sei? Con Daniele? No, sono con Eugenio di Porto Torres. Ah, Eugenio, mi senti? Carlo da Sassari. Ciao, cara. E beh, come va? Sta a posto? Però non è il tuo segnale questo qua, con una massa in macchina. Ciao Eugenio, guarda, qua mi sta arrivando a me Santiago 7, ma io ho l'antennino al balcone, capito? Radio 4, ma ti sento bene, forte e chiaro, dai, già va bene, un leggero fischio quando parli. Buonasera a tutti, abbassa di nuovo, appena un altro appena appena amici viene oggi. Ma io non ho toccato niente, ecco. Aspetta un attimo. Quella clarino che ti ho fatto vedere io l'altra volta, abbassalo appena appena di nuovo. Flavio, hai visto? Arrivo a Porto Torres, arrivo a Ittiri, arrivo un po' a Rancarranca, ad Alghero, qualcosina è. Quell'antenna te l'ho detto, me la compro anch'io, la metto a casa di mia figlia. Ciao Gianni, buonasera, prova Eugenio, dai, che sto facendo cosa, prova. Buonasera, che non sia roba di massa, Claudio. No, no, è un problema diverso. C'è il ref in quella stanza, bisogna fare qualche spostamento lì, abbiamo provato di tutto, anche adesso quando riscendo le porto un toroide, proviamo a mettere un toroide, c'è niente da fare, questo cazzo di MC60 è una cosa impressionante. Io vedi che mio, io non ho mai sentito fischiare. L'altra volta che stavo facendo quella prova, ma c'è il Michelin a 6, io non c'ho niente, perché la stanza non c'ha, è adibita a sala radio, praticamente. Scrivania, due scrivanie incrociate, tutto radio, niente, nulla, non c'è niente, nulla, capito? Ma quando inizi a avere altre cose, ti porta dentro l'MC60, è terribile, terribile. Però un po', l'ho proprio un millimetro, l'ho abbassato. Lo sta facendo ancora, abbassa ancora. Ordini picciti e sta attento allo slider, appena appena abbassa ancora. Abbassato appena appena, un millimetro. Insomma, mai ragazzi, franchi, riculo a terra, c'è un microfono, c'è un radio, tanto vai, guarda, allucinante. Hai visto che ce l'hai a sinistra il microfono? Portatelo a destra, sposta la radio da dove ce l'hai al contrario, sposta la radio dove c'è il microfono sposta dove c'è la radio. Ciao Franco, spostati al canale 8. Scusate, continuate voi un attimo perché non ne ho voglia di tornare a scendere a Porto Torres. Vabbè, potevi anche stare, non c'era un problema. Avanti Carlo, buonasera. Ciao Gianni, buonasera, io sono qua in, diciamo, in tenuta casalinga col computer, prima stavo parlando, infatti dal segnale mi sembrava Daniele da Ittiri, perché Ittiri mi arriva a Santiago 7, ho sentito un Santiago 7 e ho sentito te che parlavi e quindi non avevo riconosciuto Eugenio, ero da molto. E poco fa ho sentito un altro carissimo che ero almeno un anno e mezzo, Massimiliano Bulldozer è entrato e stavo parlando con lui, poi ero con Daniele, poi è entrato anche Claudio, poi c'è Luca lo stesso che stava facendo delle prove. Stasera da presto, insomma, dalle 17.30 circa sono in radio qua. Ma sei venuto anche ieri, tu non c'eri ieri, come mai, lavorato? Sì, sì, ieri ero di sera e sono uscito alle 19, quindi tra rientrare a casa, poi mi sono fermato giù a prendermi una pizza, mi sono messo a mangiare e quindi non ho neanche acceso perché erano già le 8:30, alle 9:15, capito? Era tardi. E oggi ho ripreso di mattina, domani c'è un'altra mattina, poi c'ho libero il riposo, quindi queste sere già mi sentirete di nuovo, ieri non ce l'ho fatta. Sì, me l'ha detto Massimiliano che era entrato anche ieri. Sì, stavo facendo delle prove, qui è stato in ruota. E vabbè, dai, è interessante che ogni tanto si riaffacciano le persone, anche quelli vecchi che c'erano più. Esatto, infatti mi ho approfittato perché Massimiliano è lui che mi aveva fatto conoscere Albino, ti ricordi, ne stavamo parlando l'altra volta, ma lui non ha saputo niente, che non c'è più, e ha detto no, che io gli ho mandato anche una persona circa un mese fa, dice, è sempre lì, capito? Ma... E allora, non so, è quello che sia successo da poco. Massimiliano, sono io il padrino, l'ho battezzato io, il nominativo gliel'ho messo io. Esatto, infatti Massimiliano lo conosce bene ad Albino, capito? Quindi l'avrebbe saputo, capito? No, ma era giusto una curiosità, capito? Niente di che, ma meglio così. Anzi, spero che sia così, così gli allunghiamo la vita. Magari si sono sbagliati, dai. Va bene, dai, lo abbiamo capito male noi, non è un problema, era giusto una curiosità, perché mi sembrava strano, anche perché io l'ho conosciuto di persona e l'ho visto diverse volte, capito? E un po' mi dispiace, perché quando l'hai conosciuta una persona che ti ha messo a posto una cosa, capito? Un po' ti dispiace così, però se non è così, meglio lo stesso. Sì, ma noi abbiamo capito bene, chi ha dato una notizia sbagliata e chi ce l'ha detto, però magari anche a lui gli hanno detto così, che ne so, tante volte si prendono fischi per fiaschi, ma non so che dirti, però a meno che sia morto da poco, capito, che sia questione di poco tempo e Massimiliano lo sapeva. Quindi c'è anche Eugenio di nuovo. Che gli ha chiamato? Allora, quanto avete arrivato a Gianni? Lui mi ha detto a 7, mi sa tanto. No, ferma tutto, adesso sei 8:30. Adesso sei 8:30 come ha scaldato. Ecco, vuoi far darti 7, Gianni, che ce l'hai davanti e stai arrivando a 7 qua, che io non ti vedo. Gianni, per forza devi arrivare, ho rotto il 9, al minimo devi arrivare Gianni. E infatti come ha scaldato, adesso come ha acceso era 7, la 7 è proprio preciso. Adesso come ha scaldato è 8:30. Guarda Eugenio, vediamo se fa ancora quel difetto, se siamo andati bene. No, adesso penso che non stia facendo niente, no, se no l'avrei sentito. E forse avevo il filo troppo vicino all'apparato, capito? Forse era quello. Perfetto, va bene, va bene. E voi avete San Claudio, il San Claudio, Sparviero, e manco io, siete morti, cazzo. Comunque qua mi sta arrivando 7 pieno Eugenio. Ma come mai che la faccio fatica a sentirti? Come mai? Non ho l'antenna sopra il tetto. No Eugenio, io ho l'antenna sul balcone, non ce l'ho più quel QTH, capito? E quindi adesso l'ho messa sul balcone, se no mi arriveresti anche 9 pazza. Ah, ho capito. Ho capito, va bene, là, l'importante è sentirci, però se mi si aumenta il QRM qua non ti tiro fuori più. Va bene, dai, già ci sentiamo comunque, dai, vuol dire che se arrivo sin lì è già qualcosina. La radio buona è già di Eugenio, va bene così come è regolata, non possiamo aumentare di più perché che sennò fischia. Una bomba, Benissimo, e me la presento. Anche io lo sto sentendo molto bene, radio, bello chiaro, pimpante, solo che lì adesso quando riscendo porto un toroide e proviamo a mettere il toroide e fare qualche spostamento, ho già capito, perché se gli ho fatto spostare il microfono al lato contrario e il cavo anche che passa. passare sotto la radio, gliel'ho fatto mettere sulla scrivania a vista, capito? E non lo sta facendo. Ma questo è di massa, allora avevo ragione io, no? Questo è di massa. È una questione che col microfono si porta dentro tutto, non c'è niente da fare. Se la base è fatta in una certa maniera, se vede tutto, è un microfono, guarda, bello è dire poco perché lo uso da 30 anni, ma è così sensibile, io non posso metterlo a fianco alla radio ad esempio, io ce l'ho fuori dalla radio, in linea alla radio, se io lo metto a fianco alla radio fischia. Ehi, io avevo fatto un cavo di massa dal microfono all'entrata del microfono che c'è nell'apparato e non me l'ha più fatto. Secondo te quello che l'ha inventato? L'ho inventato sempre io, perché ho fatto tante di quelle cose sul 60 allucinante, addirittura anche all'interno avevo provato a mettere il toroide proprio dove c'è l'aggancio dell'uscita del connettore, all'interno mi fanno vedersi piccolino, l'avevo trovato a fusare un toroide piccolino, lo faceva lo stesso. Non c'era niente da fare, ma non a casa mia, quando facevamo gli esperimenti, perché molti fischiavano, poi continuo, ad esempio, anche io è stato uno dei primi e avevamo adottato questo sistema, dentro lo spiralato, dentro però fatto bene, non volante, che non si vedeva, un filo fine, capito, messo bene e non lo faceva, e si andava avanti così. Comunque oggi adesso stai uscendo bene, non c'è problema. No, volevo capire una cosa, perché quando parla Carlo la lancetta mi va in giù? Dove ti va in giù? Vuoi dire applichi negativi? Prova a parlare Carlo. 1, 2, 3, prova radio per Eugenio. No, questo è no, allora, tu non ti raccogli forse Gianni, ma io col KC. Allora, ragione Eugenio, praticamente quando parli hai detto prova radio, il picco è salito, poi scende, un po' sale, un po' scende. Buonasera. Saluto. Ciao, va. Caspita, Eugenio è tornato ai vecchi fasti, è tra 8 e mezzo e 9 radio ottima, io sono con 4 watt, vediamo se mi copia lui, Eugenio. Ciao Marconi, buonasera, ho voglia, sei a 8, alla grande. Sono liscio, va bene, riprendi Claudio, l'antenna è integra, ho controllato, c'ho persino tutti i radiali, è eccezionale veramente, vai Claudio. Questo mi fa piacere Marco, te l'ho detto, controlla, poi fa piacere anche per Eugenio, che finalmente lo sentite come vecchi tempi, ma ancora non è finito lì il programma, ancora stiamo vedendo alcune cosette con Eugenio, perché lo sto seguendo io già da qualche giorno. Ancora devo vedere delle cosette che ci sono da controllare bene. Comunque l'antenna era smentrata, la stazione non ne ha, la radio è tornata alla grande, sta usando appunto il microfono, però abbiamo problemi di fischi, non possiamo sollevare molto l'amplificazione, quindi devo risolvere quel problemino. E poi Eugenio è tornato alla normalità, qui sì, ti ripeto, da me S7 è un segnalone, se fossi stato a Carbonazzi forse ti avrei dato anche 9 pieno, forse anche di più, però qua S7 per me è un ottimo segnale, poi Marco è molto affidabile, Gianni ti hanno dato lo stesso segnale e quindi sei arrivato al massimo cambio. Ebbene, prima ero senza antenna. C'avevo un'antenna bruciata, già credo che non andava. Adesso piazzata l'antenna, tarata, tutto a posto e niente, siamo tornati ai vecchi tempi. Sono contento, dai. Allora riprendete un attimino voi, io sto sistemando una cosetta e poi riprendo, quindi il cambio per Carlo. Carlo, non toccare niente, intanto non ne vale la pena, il tuo segnale da Eugenio è quello, quindi non puoi fare diversamente, ok? Però ti consiglio di controllare lì bene PL e qualche cosetta, perché ogni tanto mi cali di segnale, praticamente anziché andare in positivo mi va in negativo. Anche lì c'è qualche cosetta da vedere. Aspettate un attimo, chi è che ha detto c'è Eugenio? Siamo parlato sopra, vicino dalle mie parti, ha detto, ciao Eugenio, che come mi ha salutato? Ehi, che problema c'è, se ti ha salutato sopra, va bene lo stesso. Va bene così, non ci sono problemi, se ho voglia di entrare siamo qua. Io mi allontano un secondo che finisco questa cosa e poi riprendo. Vai Carlo. Bene, ciao Marco, buonasera. Prova Eugenio adesso a controllare il mio segnale, se va indietro o torna avanti. Ehi Carlo, sempre uguale. Come parli fa i picchi negativi? Va bene dai, mi sa che farò qualche altra verifica, dai, farò qualche altra verifica, poi vediamo un po'. Ascolta Carlo, intanto lì c'è la luce nel poggiolo, ci arrivi a staccare il PL dell'antenna, lo soffi, prova a soffiare, se è entrata acqua, poi lo riattacchi. E adesso dopo lo controllo, dai, vediamo un po'. Sicuramente quello lo può fare. Sta facendo adulto e ti manda i picchi indietro. Dai, riprendete, Marco lì, riprendi tu e fai girare che io arrivo subito un attimo. Allora Marco, come andiamo? Che Marco ci deve salutare. Marco! Buonasera attore, ben sentito. E buonasera a tutti. Ciao signor Gianni, e anche agli altri, al signor Eugenio, e anche agli altri, a quell'altro che si è allontanato, ok? Anche a quell'altro che è entrato poco fa. Ciao attore, buonasera. A me mi arriva il signor Eugenio, a me mi arriva il commendatore. Senti, pure commendatore si è diventato. Cosa se ne è andato a mandare chi d'altro? Chi Marco? Marco sono andato dalla madre, ogni tanto qua, capite? La madre è anziana. Ma così è, allora non ci metto più le mani. Sicuramente si è spostato per qualcosa. Prima c'era anche Luca, non so se ci sia ancora. Luca, se ci ascolti, batti un colpo. Luca, il mio amico di Sassari, ci sei, che ti devo chiedere una cosa. Io sono qua, stavo trafficando con... stavo riattaccando l'aiutino e il cavetto dalla ventola mi si è interrotto, devo di nuovo spellare i fili dove c'è la giunzione e unirli bene, non mi va la ventola. Va bene, Eugenio sicuramente avrà migliorato molto, vedi un po'. A voglia Marco, a voglia, sei quello che al momento mi arrivi più forte di tutti. Aiutato però, quindi non fate. Ma anche Gianni c'è al mare di fronte, sarà a minimo quasi fondo scala, vai Gianni. No, fondo scala non penso fondo scala, dai. Adesso ho provato a attaccare, vediamo un po' come è arrivo, faccio tri. No, io arrivo 8, dai, credo di segnale di. No, stai arrivando 9:20 adesso. 9:20 però stai saturando. Però armonica stai facendo anche. Guarda adesso non satura più perché ho abbassato a un attimo. Come fa a saturare? No, adesso è migliore Gianni, è migliore. Forse quando metti più watt ovviamente va in saturazione. Va bene. Che dire? Tutto bene. Che problema avevi oggi? Fischiava, ti rientrava nell'altoparlante dell'apparato o roba del genere? Sì, ho spostato il filo attaccato praticamente alla parte dell'apparato e fischiava. Adesso l'ho guardato, no, è tutto a posto. Hai sentito Marco? Sì, copiato. Poi prima ero con l'antenna diretta, 4 volte arrivavi tra 8:30 e 9, no? Adesso che ho messo interposto lineretto, si mangia un quarto di Santiago in ricezione. In ricezione mi mangia un quarto di Santiago. Infatti sei 8:30, tondo. Però ripeto, la perdita è da parte mia. Riprendi Tore. Luca. Sì, riprendo. È così Marco. Comunque bene sto uscendo oggi. Sì? Oggi non perché tu vieni più volte. Ottimo qua, ottimo. Tutti bene. Dai. Vai Carlo, che comunque io sono andato a salutare così, stavo facendo altre cosette e così devo, mi aggiusto questo cavetto della ventola. Vai Carlo. Un attimo di bianco, che c'è Luca che sta chiamando. Eccomi che ho riacceso, ho collegato, ho scollegato un po' di cavi, ho messo un po' di ordine a casa e sono qua. Chi è che mi cercava poco fa, che ho sentito che mi doveva chiedere qualcosa? Ah no, beh io, ma crepo Luca, buonasera forse buonasera per la prima volta. No, crepo Luca un altro. Luca del Monte tu stai cercando? Esattamente, Luca del Monte. Stamattina l'ho visto, cavalli. Con la testa. Vaga! E io ci dico. Sono stato un'oretta così chiacchierando, la batteria stava cominciando a perdere colpi, io l'ho tolto subito, se no l'avevo comprato per farmi sentire un pochino l'idea sulla 120, così non molto. Però dopo che l'ho piazzato ho detto no, no, magari mi si ferma la macchina qua, mi devo fare la fede dalla campagna. Ma è tutto imparato, è che mi da dire a lì, e la metti in bocca a strappo. Sono macchine da va, un cavolo la metti a strappo. Ma quella di burro non è da va, è antica come macchina. Qua non si possono toccare anche i cavi, perché in questo sistema, questo è il cavo delle centraline, si attacca i cavi, bruci le centraline, per cui manco i cavi, si può usare soltanto quell'attrezzo, una specie di caricatore che vengono, però uno speciale che disinserisce le centraline. Ma io la macchina ce l'ho nell'ultima, io ho messo con i cavi in moto la macchina di una signora che ce l'ha bloccata sotto casa. L'ho messa praticamente nel moto così, però mi sono seduta. Vabbè, ma dipende dal tipo di macchina, capito? Già molto ne ho messo in basso anche io con questa qua. Però secondo che macchina è, se fai danni, allora si può, in tutti i casi si può, ma devi essere talmente veloce, devi attaccare i cavi, tirare il quadro e staccare subito il cavo, perché se riesce si fa danno, capito? Però ci sono quelle specie di, come si chiama, lo piatto trasportabile, quello che usano i meccanici per avviare. Però non quelli che fungono da caricabatteria, ce n'è un tipo più particolare che quando l'attacchi ti inserisce le batterie, ti inserisce le centraline, e quello non fa danno. Il booster. La booster ci sono anche di quelli che sono caricabatterie, capito? Che serve solo per l'avviamento. Invece di quel booster c'è un tipo, infatti costa un pochino, che quello lì usano, diciamo, i professionisti, dai. Noi compriamo soltanto quello per l'avviamento e basta. Ah, qui si scarica la batteria, ce lo devi buttare perché non serve più. Ma Marco, riprendi e poi fai girare per un giro. Io faccio bianco, dai, che sono indaffarato. Rilancio Eugenio, saluto tutti e ci sentiamo in migliori occasioni. Vai Eugenio, quelle ti per me, ciao a tutti, ciao. Ciao.